Il punto di Stefano Folli. Stamane vengono insediati i 10 saggi immaginati dal Quirinale come strumento operativo per calmare le acque e avvicinare le posizioni almeno sul terreno dei programmi in attesa delle future formule politiche. Ma si è già capito che i due comitati sono destinati a vita grama. I partiti non si accontentano, sono prigionieri dei rispettivi veti, non sono in grado di stipulare patti di maggioranza, hanno impedito a Napolitano di varare qualsiasi tipo di governo, compreso quello istituzionale, e nonostante ciò aprono il fuoco anche su questa innocua iniziativa, che deve solo coprire i pochi giorni che ormai mancano alle sedute comuni del Parlamento in cui si eleggerà il nuovo capo dello Stato. E infatti si tratta di questo, tensioni e scaramucce che anticipano il grande scontro sul Quirinale, un terreno di battaglia in cui nessuno per ora ha un piano preciso, se non impedire all'altro di vincere, rischiando di compromettere il ruolo di equilibrio esercitato dalla Presidenza della Repubblica in tanti anni.